Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. I tuoi poteri sono deboli, vecchio. Non puoi vincere, Dart. Se mi abbatti, io diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. Buongiorno, erano Obi-Wan Kenobi e Darth Vader che combattevano con le spade laser. Voi direte, oggi vi parliamo di laser. Sì, parliamo di laser e parliamo di spade laser perché il laser sarà la prossima frontiera dell'illuminazione industriale alla quale stanno lavorando sotto due diversi profili, la EN e la Far N Plus, che sono due delle start-up che sono state fondate da Giordano Riello. Peraltro Giordano Riello non è poi da molto tempo che ha smesso di giocare con le spade laser, perché ha 27 anni, fa l'imprenditore, ma è ancora giovanissimo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Diciamo che in fabbrica, oltre a lavorare, si gioca anche per sviluppare nuovi prodotti, quindi noi imprenditori siamo anche degli eterni bambini sotto questo punto di vista. Appunto, appunto. Ma poi lei ha 27 anni, ma le due start-up a quanti anni d'età le ha fondate? La prima, l'EN, l'ho fondata che avevo 23 anni appena fatti, insieme a due amici ingegneri, che poi sono diventati naturalmente i miei soci, e l'altra è nata 2 anni fa in seno alla prima, perché con la EN, che si è fusa dentro la Far N Plus, progettavamo e producevamo corpi illuminanti a LED, e la seconda è nata perché abbiamo sentito l'esigenza di svilupparci tutti i sistemi elettronici di controllo dell'illuminazione in-house, e quindi è nata questa seconda branchia che ha assorbito la prima, e adesso stiamo vedendo di avviare dei progetti di ricerca anche sull'illuminazione a laser, che di fatto sarà la prossima frontiera e il futuro dell'illuminazione. Ecco, però voi siete partiti dall'idea dell'illuminazione, se non erro, anche per usi industriali. Quindi che cosa fa questa EN e perché si chiama EN? La EN, che adesso è diventata Far N Plus, è nata EN, stava per Energy Environment Engineering. Quindi l'idea di sviluppare prodotti illuminotecnici a LED per permettere alle aziende di consumare meno, perché adesso il tema energetico è molto molto sentito e molto caldo. Siamo partiti da questo, dall'ingegnerizzazione del classico tubo e plafoniera, che di base è molto semplice, e in 3 anni siamo riusciti a sviluppare tutta la gamma dell'illuminazione a LED per l'industria, quindi l'interno dell'industria, la fabbrica, visto che qua di fabbrica si parla, la zona uffici e la zona esterna, quindi lo stradale. E poi ci siamo lanciati anche in questa nuova avventura, che è quella elettronica. Che è quella del Far N Plus. Esattamente sì. È quella. Ma aspetta, spieghiamo meglio come si chiamano le due aziende. Allora, una si chiama EN, scritto come Empoli Napoli. Esatto, che è diventata dentro la seconda, quindi adesso è tutto Far N Plus. Ah, ecco, perché poi ne è stata creata una seconda. Allora, all'inizio c'era la EN che faceva illuminazione industriale, soprattutto coi LED. Poi, per fare le schede, avete fatto la Far N Plus, che fa schede elettroniche personalizzate, e poi la seconda è confluita nella prima, per cui è tutto Far N Plus, giusto? Esattamente. E Far N Plus possiamo dire che è una società che è specializzata in una forma di manifatturiero avanzato. Esattamente, ora si parla di 4.0 e noi ci stiamo confrontando anche con questo mondo, perché è importante riuscire a essere inseguiti e a non inseguire. Quindi è un manifatturiero che di base sviluppa schede elettroniche per diversi tipi di applicazioni, perché il LED sì è il nostro cuore, la nostra origine, la nostra storia, ma con la linea SMD che abbiamo sviluppato, che abbiamo comprato, possiamo essere estremamente versatili e sviluppare schede elettroniche per diversi tipi di applicazioni, dalle LED ai termostati all'automotive. Quindi sappiamo che l'elettronica è un ambiente estremamente ampio, si può lavorare in tantissimi settori. Insomma, ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando con Giordano Riello. Riello non è un'omonimia, lui è proprio il rampollo della dinastia dei Riello, quelli della Airmec, delle caldaie, dei condizionatori, dei sistemi di refrigerazione. Lui è il rampollo, ma ha deciso subito, fin dall'età di 23 anni, di investire nell'industria, nella produzione del manifatturiero avanzato. Peraltro rampollo, anche se è usato come termine scherzoso, in realtà è un termine nobile, perché rampollo vuol dire germoglio, e quindi il germoglio deve produrre una nuova pianta, e questa è un po' una regola dei Riello, che ci dirà nella seconda parte della puntata, che vi prego di ascoltare dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Fabbrica 2.4. I tuoi poteri sono deboli, vecchio. Non puoi vincere, Dart. Se mi abbatti, io diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. Allora, rieccoci in linea, siamo qui con Giordano Riello, che è l'ultimo esponente della dinastia dei Riello, ma è anche un industriale e ha fatto questa startup che si chiama Far M Plus, che è proprio opera sua e che si occupa di schede elettroniche anche personalizzate ad alto valore aggiunto, illuminazione a LED, ma nell'ambito di un concetto di illuminazione per aziende lungo linee di valore aggiunto che sono particolari e che in breve porteranno ai laser che abbiamo messo nell'introduzione, nella clip alla prima e alla seconda parte di questa trasmissione, che erano i laser di Star Wars, Obi-Wan Kenobi contro Darth Vader, ma che ricordiamo anche perché loro hanno un animo giocoso e perché, avendo lui 27 anni, non è lontano il tempo dei giochi. Ma insomma, stiamo parlando con un rampollo che, come dicevo prima, vuol dire germoglio. E l'idea del germoglio mi piace perché in casa Riello ognuno fa la sua azienda, la fa fin da giovane. Lui è un po' fedele a questa regola che fra poco tempo ci racconterà, e questo un po' smentisce certi luoghi comuni sui rampolli. Magari ci fosse azienda fatta sempre, anzi industria fatta sempre così presto e così da giovani, vero Giordano? Beh, diciamo che il termine germoglio lo preferisco a rampollo personalmente. Beh sì, in famiglia abbiamo questa regola di fatto che ci permette di entrare poi, se ci saranno le capacità, le caratteristiche, nelle aziende madri con più autorevolezza, che quella viene riconosciuta, che non è l'autorità. Di fatto i figli devono mettersi in gioco in prima linea, devono creare un'azienda, una start-up da soli, farla funzionare senza finanziamenti da parte della famiglia, perché come diciamo in Veneto, se tutti buoni a fare impresa con i schede degli altri, uno deve investire quello che è riuscito a mettere da parte da giovane, poi eventualmente l'azienda madre potrà essere cliente, però per un valore totale non superiore al 20% del fatturato. Se l'azienda poi funziona, sta sul mercato, è profittevole, genera utili, allora la nostra finanziaria entra in quota capitale con una quota di circa il 10%, altrimenti il giovane imprenditore deve trovarsi altre strade. C'è da dire che io non sono capitato in un periodo fortunato per fare impresa, però con me ho una squadra eccezionale, ho due bravissimi soci. E da tre anni come e mezzo si chiamano questi due soci? Diciamolo. L'ingegner Ambrosio di Torino e l'ingegner Ranalletta Felluga di Gorizia. Ecco, ma la vostra ambizione in qualche modo è di rivoluzionare il mondo dell'illuminazione delle fabbriche e dei luoghi di lavoro? Assolutamente sì, diciamo che ogni imprenditore ha una grande ambizione, dietro un sogno imprenditoriale c'è un'enorme ambizione. Io, guardate, faccio la mia analisi la faccio sempre quando sono in aereo e quando sto per atterrare di notte. E quando atterriamo vediamo una distesa di luci gialle, quelle sono luci delle vecchie tecnologie, sono luci che devono essere cambiate e devono essere sostituite con le luci a LED, che di solito sono tendenzialmente hanno colori un po' più freddi, quindi più bianchi. Quindi io quando atterro e vedo ancora queste distese di luci gialle dico bene, abbiamo del business da fare. Ecco, ma voi come pensate di chiudere il 2016? Il 2016 lo chiudiamo con circa mezzo milione di euro di fatturato, un numero ancora piccolo, però gli investimenti che abbiamo fatto in quest'anno, che sono stati importanti... Che sono investimenti in linea di produzione, ricordo agli ascoltatori che Giordano Riello con la sua Far M Plus si muove nel mondo del manifatturiero avanzato. Assolutamente sì. E abbiamo già in pancia per il 2017 ordini per circa 1,5 milioni e abbiamo fatto un budget cautelativo a 1,7 milioni. Quindi di fatto in un anno triplicheremo il fatturato rispetto all'anno precedente. Questa è una bellissima sfida che abbiamo colto e che ci dà un po' di tranquillità per il futuro, perché dico un po' perché per rimanere sui mercati bisogna continuamente innovare e per innovare bisogna fare investimenti. Ecco, ma il mondo dell'illuminazione delle fabbriche e dei luoghi di lavoro, di che cosa secondo voi ha bisogno? Ha bisogno di risparmiare di fatto di meno, perché l'azienda ha bisogno di avere prodotti che consumino di meno e che siano più efficienti. E una cosa importante, a mio avviso, non è vendere solamente il prodotto, ma vendere anche tutto il servizio, perché non è che si va lì e si cambia il corpo illuminante, per quanto questo possa essere fatto bene, ma bisogna vendere all'azienda il progetto, bisogna accompagnarla, magari vendergli anche il sistema finanziario per poter finanziare questo investimento. È questo che bisogna fare con l'azienda, aprire un dialogo più ampio, perché il periodo dove si vendeva solamente il prodotto, per quanto bene, ripeto, possa essere fatto, è finito. Ma adesso quindi i vostri clienti sono direttamente le aziende, non magari i fornitori di sistemi di illuminazione che sono specializzati nel dare tutto il sistema? Noi collaboriamo anche con questi tipi di aziende, però lo zoccolo duro è l'azienda diretta, quindi noi arriviamo lì, facciamo il progetto con l'azienda, abbiamo anche un fondo al quale ci appoggiamo per fare la proposta di leasing operativo, però di fatto il cliente finale per noi è l'azienda. Ho capito. E perché il tema è che le aziende per illuminare gli uffici e le fabbriche spendono troppo? Il tema è che lo sappiamo bene che il costo dell'energia in Italia è molto alto e con LED si va ad abbassare sensibilmente il costo, il consumo del corpo illuminante, perché si dimezza circa un 50% in meno e la vita utile è dalle 5 alle 7 volte superiore, quindi non bisogna tenere in conto solamente il risparmio economico immediato, ma anche i costi di gestione dell'impianto illuminotecnico. Ecco, ma qual è la novità? Perché il fatto che con le luci a LED si risparmi, anche io che sono ignorantissimo di tutto ciò, ci arrivavo anch'io. Beh, il LED, diciamo che a mio avviso ha già fatto la sua era, o meglio, le aziende lo conoscono, viene apprezzato, però è un prodotto ormai che ha raggiunto i livelli tecnologici. È per quello che ci stiamo interfacciando col mondo del laser, dell'illuminazione al laser, che sarà la prossima grande svolta, a mio avviso. Ma qual è il vantaggio del laser rispetto al LED? Il consumo. Dimezzeremo il consumo rispetto al LED. Quindi immaginiamo quanto andremo a risparmiare rispetto a. Ah, io pensavo che poi era anche vantaggioso per i licenziamenti. Ancora più flessibile del Jobs Act, un bel laser da dove illumina, zop, svanisce no. E si risolve ogni problema. Non è la spada laser di Star Wars, per fortuna. Ah, ecco. Senta una cosa, ma poi voi fate anche queste schede che sono molto flessibili, queste schede elettroniche che erano la ragione della prima startup e che voi applicate all'illuminazione ma anche forse ad altro. Assolutamente sì, la scheda elettronica è il cuore dell'illuminazione LED. Attraverso la nostra linea SMD, che faccio una breve introduzione. Abbiamo ancora 50 secondi, veda lei. Sarà brevissimo. Prendo un circuito stampato sulle quali vengono depositati dei condensatori, delle resistenze, degli integrati e poi vengono cotte e fuse dentro il circuito stampato. Mm-hmm. Ecco, noi utilizziamo questa tecnologia non solamente per il LED, ma anche per esempio un nostro cliente è la casa madre Airmec, alla quale forniamo parte delle schede elettroniche che andranno sui termostati. Ora stiamo ragionando col mondo automotive con delle. Quindi insomma voi producete sia LED e sia schede elettroniche, poi studiate l'illuminazione del futuro. Ecco, un'ultima cosa che va detta è che voi siete in una sorta di parco industriale di innovazione che sta a Rovereto. Noi siamo a Rovereto, dentro il polo della meccatronica, che devo dire che è un ambiente estremamente stimolante ed effervescente. Ma infatti dobbiamo fare una puntata poi sul polo della meccatronica di Rovereto. È un polo sul quale noi stiamo riuscendo a lavorare molto bene, ci stiamo interfacciando con diverse anche aziende, altri colleghi, per capire quali strade dovremmo percorrere per il futuro, perché la cosa importante che dovranno fare le aziende in Italia che non sono riuscite a fare bene è riuscire a fare squadra, è lavorare in team per raggiungere traguardi ancora più alti rispetto a quelli che il Made in Italy ha raggiunto nella storia. Benissimo, adesso dobbiamo chiudere, però a me piace molto parlare con lei, quindi mi auguro di averla ancora nostro ospite. Arrivederci Giordano Riello. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti gli ascoltatori, anzi a risentirci a tutti gli ascoltatori sabato prossimo ore 14.